Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, siamo ovviamente nel pieno dell'estate e abbiamo già parlato dello sportello Vacanza Informata, che è lo sportello dell'Adico, dove ci si rivolge per problemi legati alle vacanze. In questo caso però vogliamo approfondire i problemi che ci sono magari quando si va a prendere un aereo per andare in qualche paese un po' più distante. Si è affacciato il periodo estivo decisamente, ma noi già da qualche mese che riceviamo le solite segnalazioni delle problematiche legate ai voli aerei. Di recente abbiamo sentito varie storie, proprio pochi giorni fa ci è stata raccontata la vera e propria odissea di una famiglia che doveva prendere un aereo da Praga, poi l'aereo è saltato, ha dovuto prendere un pullman fino a Monaco di Baviera, là a Monaco non hanno più potuto portare il bambino piccolo, insomma un sacco di problematiche. Però devo dire che in questo periodo i problemi con aerei sono tantissimi, vediamo che ci sono molti aerei cancellati, molti scioperi, e da un'indagine che abbiamo effettuato sappiamo che più della metà delle persone che stanno per partire per le vacanze, per più della metà di queste persone il pensiero più grande è quello dell'aereo. Mi verrà cancellato il volo, arriverà in ritardo, perderanno i bagagli. Ecco, noi come Adico ovviamente siamo sempre qua ad assistere tutte le persone che abbiano avuto dei problemi con il volo aereo. Ricordiamo però che insomma anche le normative tutelano ampiamente chi abbia avuto dei problemi, sia con i ritardi che con le cancellazioni che con l'overbooking. Quindi problemi che possono capitare e che se uno sa come muoversi può in qualche modo recuperare anche dei soldini. Sì, si possono recuperare soldi, insomma si possono recuperare un po' le forze, perché c'è il diritto a, per esempio, a pasti, bevande in caso di ritardo. Ecco, io Francesco, se mi permetti, vorrei proprio fare un piccolo vademecum. Va bene. Anche per chi sta partendo, per chi partirà, proprio per quanto riguarda l'utilizzo dell'aereo. E intanto voglio ricordare, quando l'aereo è in ritardo, partiamo proprio da questa casistica, se il ritardo supera le 3 ore, il passeggero ha diritto a un risarcimento che può variare tra i 250 e i 600 euro, a seconda chiaramente della lunghezza della tratta. Poi, come ti dicevo, ha altresì diritto a pasti e bevande, e chiaramente se il ritardo è molto più lungo ha diritto anche la notte pagata in albergo, nel caso appunto in cui si debba partire il giorno dopo. E l'unico caso, e questo è molto importante da dire, in cui non si ha diritto al risarcimento è quando il ritardo è dovuto chiaramente a motivazioni, ai eventi imprevedibili. Quindi anche un allarme bomba, una cosa del genere, fa parte di questo, insomma. Ovviamente sì, non si può imputare chiaramente alla compagnia il ritardo in questo caso appunto poi c'è una motivazione legata alla sicurezza, quindi qua non si ha diritto al risarcimento. In tutti gli altri casi sì, quindi insomma invitiamo le persone che abbiano vissuto questa avventura a presentare poi la domanda per il risarcimento, si può fare direttamente in aeroporto solitamente. E la stessa ragionamento si può fare in caso di cancellazione dell'aereo, quindi si hanno gli stessi identici diritti conseguenti al ritardo, però sotto appunto il risarcimento da 250 a 600 euro, le bevande, la notte in albergo, eccetera eccetera. Però ci sono 3 casi, e anche qua è importante dirlo così uno non si illude, 3 casi in cui non si ha diritto a nulla. Ovvero quando la cancellazione è dovuta a eventi imprevedibili, come abbiamo detto anche prima, e tali per cui la compagnia aerea non poteva ovviare al problema, ovviamente. Poi quando la cancellazione viene comunicata tra le 2 settimane e la settimana prima della partenza, e viene offerto anche un volo alternativo, quindi non più di 2 ore prima dell'orario di partenza previsto. Il 3° caso è quando la cancellazione viene comunicata meno di 7 giorni prima della partenza e viene offerto un volo non più di 1 ora prima dell'orario di partenza previsto e che ti permette di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l'orario di arrivo previsto. Sono cose un po' tecniche, diciamo, però tutte queste indicazioni le potete trovare anche negli stessi aeroporti, ma comunque in qualsiasi sito in cui appunto vengono fornite queste indicazioni. Per quanto riguarda invece l'overbooking, anche in questo caso si hanno gli stessi identici diritti del ritardo e della cancellazione. Poi, Francesco, volevo ricordare una cosa che succede un po' spesso, sempre più spesso anzi, sì. E cioè che è lo smarrimento di bagagli. Eccolo là. O anche il danneggiamento dei bagagli, però molte volte è lo smarrimento, quindi ci troviamo il bagaglio in tutt'altro posto rispetto a dove ci troviamo noi. Qua cosa bisogna fare? Lo si fa spesso, si va direttamente all'ufficio oggetti smarriti dell'aeroporto con il biglietto dell'aereo e chiaramente la ricevuta del bagaglio, e bisogna compilare un modulo che è offerto dalle stesse compagnie per denunciare lo smarrimento o appunto il danneggiamento del bagaglio. E poi insomma è un po' complesso, però poi alla fine bisogna inviare una raccomandata alla compagnia aerea entro 7 giorni in caso di danneggiamento e entro 21 giorni invece in caso di mancata riconsegna. Ora io spero che qualcuno si sia appuntato magari tutti questi dati, però se non l'ha fatto tranquillamente si possono trovare tutte queste indicazioni in internet, anche sul nostro sito ovviamente, quindi sicuramente si può viaggiare più tranquilli conoscendo queste cose, questi diritti. Spero che non mi capiti mai una cosa del genere, quindi mettete le cose importanti nel vostro borsello a mano, mi raccomando, non lasciatele nelle valigie, perché poi se perdete le valigie è anche difficile rientrare in possesso magari anche di valori messi proprio all'interno di queste, credo. Quindi per altri dettagli, per qualsiasi domanda particolare che un ascoltatore di Blu Radio Veneto abbia, ricordo che c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it con Gianluca Codognato e tutto lo staff dell'Adico, che sarà ben lieto di darvi qualche aiuto a una vostra eventuale chiamata. Grazie Gianluca, con te l'appuntamento è tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.